Il gastronauta di Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ebbene, oggi avevamo deciso di parlare di pani dolci, di pani salati, di uova di Pasqua. Avevamo parlato di colombe, volevamo parlare. Però prima di iniziare a parlare di questo argomento, ritengo anche così doveroso far intervenire un personaggio che come sempre dimostra grande generosità, parlando appunto proprio di cucina, che è Gianfranco Vissani. Buongiorno Gianfranco. Buongiorno Davide, buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, io volevo proprio per iniziare questa trasmissione farti raccontare ancora una volta la tua iniziativa. Già tu l'avevi fatta in Umbria, ricordo, durante il terremoto, e quindi ancora una volta tu per primo hai lanciato così questa iniziativa di dare dei pasti caldi, firmati addirittura. Vedi, non è il problema, Davide, noi non vogliamo la pubblicità perché non mi interessa, era solamente una cosa umana che il giorno di Pasqua, penso che tutti quanti vorremmo stare in famiglia come il giorno di Natale che l'abbiamo fatto a Colfiorito, il giorno di Pasqua pensavo una cosa carina di stargli vicino per le persone care che hanno perso e di stargli vicino noi come ristorazione, perché noi oltre che dare un piccolo contributo, che cosa possiamo fare se non possiamo andare giù di presenza noi e presentare qualche cosa, un dessert. Ma io infatti non volevo assolutamente così come affermare che questa così è un messaggio di pubblicità, volevo semplicemente, so che tu hai lanciato un appello ad altri tuoi colleghi e volevo anche a te. Perché mi hanno risposto persone come la Francia, come la Germania, come l'Inghilterra, che mi hanno veramente scritto addirittura da Boston proprio per volevano partecipare, di avere un contributo per avere una partecizione in questa cosa, ecco. In questa manifestazione che andremo a fare per fare un primo un dessert per 29.000 persone. Sono 27 blocchi di cucine, perché sono 27 blocchi di tende, strutture che ci sono le cucine, e praticamente ogni squadra che abbiamo organizzato si vanno a presentare e fanno da mangiare per 1.000 persone, un primo e un secondo. È chiaro che lì c'è la protezione civile, ci sono i volontari che danno la mano e poi stanno facendo uno sforzo grandissimo, tutta la ristorazione abruzzese sta facendo uno sforzo perché tutti i giorni stanno facendo questo lavoro. Che questo, ma noi andiamo giù per fare una cosa per Pasqua, perché tanta gente non può neanche allontanarsi dal proprio ristorante per Pasqua, ma io proprio è un atto dovuto, questa gente che poi tra parentesi insomma mio figlio è metà abruzzese, metà me, insomma, dunque non è che io sono così. Ecco, io volevo solo sapere se tu c'era bisogno ancora di vivere o d'altro, proprio lanciare questo appello attraverso la radio. Io questo appello l'ho lanciato, mio figlio ha fatto un sms, ha fatto su internet, ha lanciato questo che un messaggio. Il giorno di Pasqua sarà devoluto proprio per questa gente che ha veramente bisogno, che non ha più niente. Bene, quindi io credo che molti radioascoltatori, perché ci sono anche molti ristoratori, ci sono anche molti produttori di prodotti gastronomici che sentono questa trasmissione, sentono questa iniziativa, sicuramente magari faranno seguito anche a questa straordinaria iniziativa che ancora una volta Gianfranco Vissani ha così promosso. Grazie Gianfranco, grazie Gianfranco, poi, e buon lavoro. Una parola, Davide, una parola ultima, perché noi non andiamo giù solamente con i nostri coltelli, quello che c'è sui container si cucina, dunque non sappiamo neanche quello che andiamo a trovare, che cosa possiamo cucinare. Bene, ti auguro a te una buona Pasqua e sicuramente a tutti coloro che così riusciranno a mangiare un pasto caldo. Grazie Gianfranco. Grazie a voi. Grazie, continuiamo con Pasqua, continuiamo appunto, avevamo previsto di parlare di prodotti pasquali, e tra i prodotti pasquali sicuramente c'è la colomba, ci sono altri dolci, c'è la pastiera che è un dolce straordinario napoletano di origine, napoletano anche di tradizione, ma io devo dire che assieme al panettone il mio dolce preferito è proprio la pastiera, quindi combino nord e sud, però questa volta voglio parlare di pastiera con un pasticcere brianzolo, quindi un pasticcere lombardo che è Achille Zoia. Buongiorno Achille. Buongiorno. Il quale produce la pastiera, e devo dire che io proprio ieri sera ho assaggiato questa pastiera e l'ho trovata straordinaria. L'ho trovata, non dico uguale o pari o d'altro, perché non voglio fare i confronti, a molte pastiere eccellenti, a cominciare da quella di Scaturchio, ad esempio, di Napoli. Allora voglio capire da Zoia qual è il segreto. Zoia, qual è il segreto della pastiera? Beh, il segreto della pastiera chiaramente è il grano e la ricotta, cioè praticamente il grano che viene cotto, ha portato a ebollizione per tante ore, per mezz'ora, 30-40 minuti, poi lasciato riposare una notte e poi dopo ripreso e rifatto a crema e poi dopo naturalmente la pastiera è nata come la tradizione dice, che è la pasta di ieri, poi dopo l'evoluzione felice ha portato a questi connubi tra il fiore dell'arancio, la ricotta, poca frutta candita, naturalmente il grano che è il segreto un po' della pastiera, poi naturalmente ognuno fa le sue evoluzioni, come ogni professionista, chiaramente mette un tocco del suo, cura di più la pasta frolla o meno cose così e via dicendo. Senta Achille, ma è vero che uno dei segreti è questo periodo, appunto il germoglio del grano, che dovrebbe essere utilizzato quello, oppure è una leggenda metropolitana? Beh, per me oramai è diventata una leggenda, perché oramai la pastiera si prepara tutto l'anno, lei se va a Napoli, nell'aeroporto di Napoli la pastiera c'è tutti i giorni, cioè poi se viene bollito e messo via in quel periodo, però... Lei dice quindi ormai si può produrre tutto l'anno, magari sì. Ci va anche il fiore d'arancio, se non è. Soprattutto il fiore d'arancio, ecco, proprio la scelta che deve essere un fiore d'arancio purissimo, che naturalmente non si deve stare a lesionare sul prezzo per fare questi prodotti, perché tanto se ne va talmente poco. Una volta si grattugiava l'arancio e il limone, si fa ancora un pochino, si fa bollire insieme al grano per dare un po' di profumo. Senta, lei da grande pasticcere, mi dica una cosa, la colomba, sì. il procedimento è pari e uguale al panettone o c'è qualcosa di diverso? No, è uguale al panettone, con le stesse difficoltà, chiaramente c'è la fantasia dei frutti canditi, è l'unica cosa che si riferisce un po' allegoricamente a... un po' alla cristianità, eccetera, la forma della colomba e cose di questo genere. Poi si è tramandato un po' le leggende da Pavia, che c'era il re di Pavia che aveva dovuto prendere la colomba per come pegno o qualcosa del genere. Ecco. Beh, ci sono molte, su tutti i prodotti ci sono le leggende, sì. ma non ha il successo però che al panettone la colomba, no, come mai? È in evoluzione, il panettone è diventato talmente famoso, talmente popolare che ognuno si sente in dovere di regalarlo a qualcuno, la colomba non ha così questo, è ancora questo, il Pandoro e il panettone sono ancora molto avanti, la colomba c'è un terzo praticamente sul prodotto del panettone. Ecco, in pasticceria abbiamo in questo periodo la pastiera, la colomba, c'è qualche altro dolce che è tipico di questo periodo? Pasquale, insomma. Beh, in tutte le regioni hanno le loro cose, chi fa il pane con l'uovo, chi fa la pizza battuta come nell'Umbria e via così, ogni regione ha la sua caratteristica, la colomba è proprio nostra praticamente. Quando dice nostra cosa intende? È lombarda. Quindi la colomba è lombarda, come il panettone, quindi sì. Diciamo vi accaparrate tutto il meglio della pasticceria italiana? Beh, noi... Siamo nati un po' lievitisti, siamo un po' i precursori del lievito naturale, cioè, ma praticamente noi abbiamo forse mantenuto il lievito naturale, perché all'origine si lavorava solo con il lievito naturale, il lievito di birra è venuto fuori dopo degli anni 30, non so, forse del 30, prima di allora tutti lavoravano solo con il lievito naturale. Ecco, senta, per il panettone ci vogliono tante ore a produrle, addirittura. Uguale alla colonna. Quindi ci vogliono 36-40 ore anche per la colomba. Sì, ma teniamo sempre presente che queste ore vanno sempre rapportate a che il lievito sia pronto, perché se il lievito non è pronto ce ne vogliono altro che 30-40, ce ne vogliono magari 5-6-10 giorni per preparare un lievito. Chi usa il lievito però? Chi usa il lievito madre? Sì, tutti quelli che usano il lievito madre. Normalmente ci si ha, però uno lo deve preparare perché magari lo conserva in frigorifero da 6-7 giorni, perciò ci vuole 6-7 giorni portarlo a essere pronto, dopo di allora ci vogliono le classiche 36 ore. Bene, grazie ad Achille Zoia, la boutique del dolce a Concorezzo. Bene, a presto e complimenti per una grande pastiera, che non avrei mai pensato di trovarla al nord. Bene, continueremo a fare un grande giro perché andremo a scoprire alcune alcune specialità in Umbria, altre addirittura a Urbino, città dove in questi giorni c'è questa grande mostra su Raffaello, e poi ancora le uova. Andremo a verificare le uova di gallina, quelle vere, esistono ancora? Avremo una signora, la signora del pollo, che ci racconterà, appunto, e delle galline ovviamente, che ci racconterà se è ancora possibile o non è possibile bere le uova ad un tempo. Il gastronauta. Continuiamo questo tour pasquale fra i prodotti che sono tipici di questo periodo, sono caratteristici di alcune zone, ma ci sono anche delle novità, e la creatività in cucina, la creatività in gastronomia non finisce mai, quindi ci sono sempre nuovi prodotti, molte volte sono abbastanza bizzarri, altre volte sono importanti per colpire l'opinione pubblica con un qualcosa di originale. Ebbene, tra i prodotti che ho visto così quest'anno, curiosi, molto curiosi, c'è una colomba alla birra. E abbiamo con noi Osiride Chiaradia, che è responsabile marketing della società Zago, appunto, che distribuisce birra di grandissima qualità, il quale questa azienda ha messo sul mercato una colomba alla birra. Bene, io chiedo appunto a Osiride come mai, come è venuta questa idea? Buongiorno a tutti voi. A noi l'idea è venuta perché avevamo realizzato il primo panettone alla birra fatto con l'ai cuvée, e tanto è stato il successo che molti dei nostri clienti ci hanno chiesto perché non provate anche a fare la colomba. Così abbiamo ideato invece una colomba creata invece con una birra diversa, che è la birra ai, a metodo champenoise. E però abbiamo voluto rivoluzionare un po' la ricetta classica della colomba, facendola senza canditi e senza uette. Sicuramente senza canditi, perché così poi l'accostamento al bicchiere con il prodotto birra veniva comunque esaltato, vista la difficoltà poi di associare l'agrume. E poi abbiamo deciso di farlo senza uette perché comunque ci ricordava più un periodo invernale. E la particolarità di questa colomba è che poi in fase di degustazione si può degustare a fette, servendo sopra una restrizione della stessa birra, che non è altro che la gelatina di birra ai. Ecco, mi spieghi una cosa, ha parlato di birra metodo champenoise, sì. Vuole spiegare se il metodo è lo stesso dello champagne, dello spumante, metodo classico italiano, oppure se c'è qualcosa di diverso sulla birra? Innanzitutto volevo fare una premessa che in fase anticipativa accetto distributori, noi invece siamo produttori di questa birra, e il metodo rivoluzionario è stato quello di creare lo stesso metodo dello champagne, quindi facendo fare al prodotto due rifermentazioni in vasche di rame, in cui ciascuna fermentazione, siccome seguiamo un processo lunare, dura 28 giorni, quindi abbiamo due fasi di rifermentazione di 28 giorni più 28 giorni, e poi invece introduciamo il liquido in bottiglia, mentre nello champagne solitamente avviene la sboccatura, quindi i lieviti vengono fatti riuscire, e poi si ha l'introduzione del quello che viene denominato liquor de spedition. Nel nostro caso invece abbiamo il reinserimento di lieviti vivi all'interno, la bottiglia viene tappata, viene messa nei pupitre per circa un anno, dopodiché il prodotto appunto è pronto per essere distribuito. Mi sembra che voi le birre, diciamo, metodo champenoise le distribuite in magnum, se non erro. E non solo, abbiamo iniziato in magnum, ma adesso le distribuiamo anche in formato da 75. Ma in magnum si mantiene molto meglio, penso, e sia sì, molto più, diciamo, fragrante. Che funziona un po' come nel mondo del vino, per cui tanto più è grande la bottiglia, tanto più si ha un'evoluzione del prodotto, ancor più nel prodotto birra, perché siccome il lievito lavora in maniera cubica, più è la capacità del contenitore, più l'espansione e anche l'evoluzione del prodotto rilasciano anche dei profumi comunque diversi. Bene, grazie, io ringrazio appunto Osiride Chiaradia dell'azienda Zago, che ha messo sul mercato questo prodotto abbastanza curioso, nuovo, innovativo. E ora vogliamo passare a un altro argomento, voglio passare a un altro prodotto che è tipico della Pasqua, un prodotto, devo dire, storico, che ha anche così dei riferimenti, se vogliamo, anche religiosi e sicuramente evocativi appunto della Pasqua, che è l'uovo. Buongiorno a Monica Maggio. Buongiorno, buona Pasqua. Buongiorno, Monica Maggio dell'azienda agricola Il Feudo di Zocca di Modena e produttrice di tutta una serie di animali da cortile, ma soprattutto ormai diventata molto famosa con le sue uova di gallina. E la prima domanda che voglio fare a Monica Maggio è questa: ma tutti vanno a cercare quello che hanno assaggiato o sentito ieri, tutti i prodotti del passato sono considerati decisamente migliori. Monica, ma le uova di gallina sono come quelli di tanti anni fa o sono cambiate? Sicuramente le uova industriali sono cambiate le razze che di polli che vengono usati negli allevamenti industriali per deporre le uova, chiaramente perché vengono scelte per la produttività, quindi l'uovo ha perso, maggiore la produttività e quindi minore diventa la qualità dell'uovo, quindi ha perso quelle caratteristiche. L'uovo migliore è quello della gallina che razzola, mangia l'erba, vive all'aperto, è un uovo che incorpora tutti i beta-caroteni naturali, tutti i terpeni, quindi i profumi delle erbe, e quindi è un uovo molto più ricco, profumato e poi minore la produzione di uova, è meno sforzata l'animale e più l'uovo è ricco di nutrienti. Quindi non si può dire che l'uovo di ieri era migliore, ora ci sono anche delle uova che sono sicuramente all'altezza della situazione. Certamente, perché sono riprodotte con i metodi antichi. Ecco, in questo momento della Pasqua, io penso che la produzione di uova, la domanda di uova cresca, oppure mi sto sbagliando? No, la tradizione è fortissima e quindi aumenta la richiesta di uova e anche il periodo di maggior produzione, perché questo è il periodo in cui gli animali trovano più favorevoli condizioni per deporre le uova e quindi riprodursi. Volevo chiederti questo, di dare un'indicazione al consumatore, uno che va ad acquistare le uova anche in un supermercato dato, cosa deve tenere presente, quali sono i segreti per acquistare le uova? Innanzitutto cercare il più possibile uova di galline allevate all'aperto, non a terra, perché a terra potrebbe voler dire in un capannone, all'aperto già meglio. Cercare di, quando apre l'uovo, cercare le uova più fresche, che sono quelle che hanno il tuorlo più denso e l'albume più denso. Il colore del tuorlo è importantissimo, non deve essere troppo arancione, perché questa è un'indicazione di beta caroteni aggiunti alla dieta, quindi il colore dell'uovo è un giallo sole brillante. Ecco, volevo chiederti un'altra cosa. Mi dicono che uno dei trucchi è quello di mettere l'uovo nell'acqua, che se va verso il fondo diciamo ha delle caratteristiche, se invece risale ne ha altre. È vero o nella leggenda metropolitana questa? No, è verissimo. L'ideale anche sarebbe aggiungere un po' di sale all'acqua, che aumenta la densità dell'acqua. Quindi un uovo molto fresco, anche in acqua e sale, va a fondo. Più tende a galleggiare, più è vecchio. Ma ci sono dei piatti particolari pasqualini, chiamiamoli così, che tu vedi che in questo periodo sono i più frequenti fatti a base di uova? Sì, la frittata con gli asparagi, le uova strapazzate con le erbe di campo, tutto quello che naturalmente richiama la produzione di questo periodo. Cioè è bene mangiare le cose in stagione, quindi asparagi, verdure di campo, radicchi, piselli, queste cose qui. Vogliamo dare un ultimo consiglio, che credo sia, come posso dire, la cosa più semplice che tutti danno per scontato. Ma se uno si fa delle uova sode, quanto devono rimanere nell'acqua? Allora, se le mette nell'acqua bollente, 9-10 minuti, dai 7 ai 10 minuti a seconda della dimensione dell'uovo. Io consiglio sempre qualche minuto meno, perché il tuorlo non deve essere mai troppo duro, perché diventa meno digeribile, quindi deve essere rassodato ma non proprio gommoso, ammattonato come si dice in Toscana. E quindi E poi l'uovo è sempre meglio, per fare l'uovo sodo è bene che l'uovo abbia qualche giorno, una settimana, perché sennò non si sguscia. Quindi l'uovo sicuramente è uno dei prodotti, diciamo, di Pasqua, è uno dei, dei simboli anche della Pasqua cristiana. Nelle chiese, in molte chiese avviene proprio lo scambio anche con sì. le uova, quindi credo che esatto. col pane e le uova, dicevo prima del pane, poi andremo alla ricerca appunto di pani molto particolari che si producono in varie parti d'Italia, a cominciare da Sarsina, un paesino nelle vicinanze, paese famoso tra l'altro per il suo Duomo, e nelle vicinanze di Cesena, dove andremo a scoprire che esiste veramente la tradizione di un'antica pagnotta che viene prodotta in questo periodo. Bene, io ringrazio Monica Maggio dell'azienda agricola Il Feudo di Zocca in provincia di Modena, che appunto ci ha spiegato tutti i trucchi anche per acquistare le uova. Il gastronauta. Continuiamo questo giro d'Italia alla ricerca di prodotti tipici del periodo pasquale, ma anche localizzati in alcuni territori. Ebbene, il centro Italia è sicuramente nel periodo pasquale quello che offre di più, più curiosità, più prodotti, specialmente in Umbria e nelle Marche. Ebbene, ora andiamo ad Urbino. Urbino, città importante dal punto di vista storico-culturale, che proprio in questi giorni ospita una mostra straordinaria su Raffaello. Ebbene, Urbino durante il periodo pasquale offre un prodotto veramente tipico, che è la crescia di Pasqua. E noi ne parliamo con Claudio Amati. Buongiorno Claudio. Buongiorno. Lei ha un negozio, vero? Un negozio di alimentari, se non erro. Una gastronomia. Una gastronomia dove produce la crescia di Pasqua. Ce ne vuol parlare di questo prodotto? Sì, la crescia di Pasqua nella città di Urbino, anche nei paesi vicini, era una crescia, un prodotto di tradizione. Aveva assunto lo stesso valore simbolico come oggi può essere la colomba di Pasqua. Veniva fatta in casa e portata a cuocere nel forno più vicino. Ecco, come si produce questa crescia? Come si ottiene? Quindi c'è un prodotto casalingo. Ce ne vuol parlare un po' come così, sulle fasi di produzione? Dunque, la crescia di Pasqua, io le posso dare gli ingredienti. Certo, certo. Gli ingredienti vengono usate le uova nostrane, della farina 00, del lievito madre oppure del lievito di birra, dipende uno cos'ha, del burro e due tipi di formaggi, un pecorino e un parmigiano reggiano. Viene aromatizzato con dell'arancio e del limone e un po' di noce moscata. Ecco, il pecorino è quello tradizionale urbinate? Sì, il pecorino veniva usato, il pecorino fatto stagionare una volta in foglie di noci, e veniva usata anche la caciotta di Urbino stagionata, proprio per l'occasione. Ecco, vogliamo ricordare che la caciotta di Urbino è un prodotto di denominazione di origine protetta, quindi sì, uno dei DOP. Prodotti è una DOP riconosciuta dalla Comunità Europea, quindi un prodotto saporito. Di solito con cosa viene? Cioè era un prodotto che veniva mangiato o accostato? Questa anche con l'usanza, la tradizione della crescia di Pasqua, veniva mangiata a colazione la mattina di Pasqua da tutta la famiglia, con le uova sode benedette e il salame nostrano. Quindi qui si portava in chiesa a benedire il giorno avanti, la vigilia? Il prete passava casa per casa e benediva le uova. E poi la mattina di Pasqua si mangiavano queste uova per la crescita di Pasqua. Ma oltre a questo modo si usava anche come minestra, si tagliava a cubetti una volta tostata e si bagnava con il brodo. Senta. Oppure si usava anche fare una pappa, tipo una ribollita, con il sugo d'agnello. Quindi, agnello, fegatini, cradellina, tutto. Quindi veniva usata in tantissimi modi, viene usata la crescia. Senta, diciamo nel periodo non pasquale, continua a essere prodotta ancora, ricercata oppure... Sì, viene anche dopo Pasqua, perché è anche un pane gradevole, anche da abbinare con del tonno, tipo tramezzino, capito? si può fare di tutto con la crescia. Quindi, noi lo usiamo anche come pane. Quindi in versione moderna con il tonno, insomma, si può fare. Senta, sì, ecco, senta Matti, volevo chiederle questo. Lei ha detto il prete passava a casa a benedire le uova. Passa ancora il prete a benedire le uova a Urbino? Certo. Quindi c'è ancora questa tradizione che continua. Senta, il piatto tradizionale di Urbino o del vostro territorio di Pasqua è l'agnello oppure ci sono altre tipologie di piatto? Dunque, noi facciamo questa crescia di Pasqua abbrustolita, è fatta con questo sugo d'agnello che si chiama agnello sfuggito, perché si usavano le parti meno commestibili, quelle parti più dure. Si faceva questo sugo, e si fa tuttora questo sugo, e si tolgono i pezzi che non sono commestibili, sono quelli duri. E viene questa ribollita di pane, di crescia di Pasqua con il sugo d'agnello, prezzemolo e aglio alla fine con un po' di formaggio e olio crudo. Poi un altro piatto che facciamo noi è la pasta nel sacco. Ah, bellissimo, cos'è la pasta nel sacco? Divertente questo. È una pasta, anche questa di formaggio cacciato d'Urbino, pecorino, si fa riposare 24 ore, poi il giorno dopo viene avvolta in strazzi da cucina, capito? Una volta usavano le federe di cuscini. Sì. E poi le chiudevano e le mettevano a cuocere nel brodo. Una volta cotto si taglia a cubetti e si serve in brodo. Quindi veniva usato anche i sacchetti di lino allora un tempo. Esatto, per esatto. La cosa migliore per questo. Senta Matti, la sua è una gastronomia che è proprio nel centro di Urbino? Sì, Piazza delle Erbe. Bene, tutti la crescia quindi si può trovare tutto l'anno da lei? Sotto il periodo di Pasqua sicuramente, durante l'anno un po' meno, una volta alla settimana. Bene, la facciamo. Bene, la ringrazio Amati, a presto. Grazie, arrivederci. Buon lavoro e buona Pasqua. Sentiamo, ora andiamo in Umbria, andiamo a Corciano in provincia di Perugia e andiamo al forno Pioppi da Fernando Pioppi. Buongiorno Pioppi. Buongiorno, più precisamente a Mantignana, perché ormai la nostra torta è conosciuta come la torta di Mantignano. E allora me la racconti questa torta di Mantignano? Eh beh, come tutte le ricette antiche contadine nascono un po' dalla tradizione, no? Era un po' la torta di recupero, perché i rimasugli del formaggio, quindi le bucce, quelle più dure, fanno bollire nell'acqua e poi una volta ammorbidite venivano impastate in questa sorta di impasto così grezzo con la madre del pane, con un po' di uovo, con un po' di strutto e poi il venerdì santo tutte le massaie ecco, confezionavano queste torte stupende, buone e venivano anche arricchite. Senta Pioppi, ma lei ha parlato di strutto, si trova ancora dalle sue parti lo strutto? Strutto di puro sugo, certo. Quindi si trova ancora che è la cosa migliore per cuocere certi prodotti. Certo. Senta, in questa torta lei ha parlato anche di formaggio, no? Adesso è diventata un po' più ricca e un po' più nobile, se vogliamo. E quindi il formaggio, quale formaggio viene usato? Vengono usati tre tipi di formaggio, in verità. Quindi il pecorino romano, il parmigiano e l'emmental svizzero che gli dà quel senso di dolcezza, insomma, poi diventa un'alchimia fra dolcezza e salato, no? Quindi multiculturale, insomma, c'è un po' di italiano, un po' di svizzero, un po' di tutto dentro qui. Sì, vabbè, la tradizione per eccellenza contadina poi, le ripeto, veniva fatta un po' che rimasugli del formaggio, era una tradizione povera, poi veniva arricchita da tutti i forni e si fa tutto l'anno, soprattutto nel nostro forno, insomma, riusciamo a farla tutto l'anno. Senta Pioppi, lei fa ancora il pane con lievito madre cotto al forno? Ma la stessa torta si fa con il lievito madre. Ho capito. Senta, cosa mangia lei il giorno di Pasqua? Qual è il piatto tradizionale della sua tavola? Insieme alla torta ci va il capocollo nostrano delle nostre parti, che è un salume molto saporito, ma si sposa benissimo con la nostra torta. Quindi maiale, insomma, si mangia. Non si mangia l'agnello dalle sue parti. Anche l'agnello, però diamo così la priorità ai nostri prodotti. Ho capito. Bene, io la ringrazio Pioppi. Allora lo ripeto, il forno Pioppi, dov'è, come ha detto, la frazione Mantignana. Quanti chilometri è da Perugia? A 10 chilometri da Perugia, 10 chilometri dal lago Trasimeno. Bene, allora è anche un bellissimo posto, non lo conosco ma immagino che sia un bellissimo posto. Grazie a Pioppi, ora andiamo in Friuli perché abbiamo parlato di colomba, come dolce pasquale tradizionale, ma abbiamo visto che ce ne sono anche altri, appunto la pastiera, specialmente al sud, nella zona della Campania. Ma ora andiamo in Friuli, perché in Friuli esiste la cubana goriziana, e entriamo nella pasticceria centrale di Gorizia da Marco Visentin. Buongiorno Visentin. Buongiorno a lei. Allora, innanzitutto racconti ai nostri radioascoltatori cos'è la cubana. Beh, la cubana è un dolce che effettivamente è tipico delle nostre zone e nasce proprio in occasione delle festività pasquali. Quindi oggi è diventato un dolce che si produce tutto l'anno, ma è un dolce che nasce come dolce pasquale. In poche parole, per sintetizzarle, la cubana è un dolce fatto in pasta sfoglia con un ripieno all'interno fatto con diversi ingredienti, un impasto formato da noci, mandorle, pinoli, uvetta, nocciole, uvetta logicamente aromatizzata perché viene messa a bagno a seconda delle diverse ricette, o in marsala, o in rum, o in vino. Esistono migliaia di ricette della cubana, però diciamo che i tratti salienti sono questi. Senta Visentini, io so che ci sono due scuole di pensiero sulla cubana, no? C'è anche esatto. Ce lo vuoi spiegare queste due scuole di pensiero? Allora guardi, in effetti in Friuli Venezia Giulia c'è un po' talvolta un po' di confusione riguardo al dolce che viene denominato cubana. Anche qui diciamo che nella zona del Cividalese, nella zona dell'Alto Friuli, cubana viene denominato un dolce diverso da quella che è la cubana goriziana. Mentre la cubana goriziana si richiama un po', è cugina diciamo del Presnitz triestino e quindi è fatta in pasta sfoglia con all'interno un ripieno, la cubana cividalese ha lo stesso, più o meno lo stesso ripieno, diciamo più o meno perché non è proprio esattamente la stessa cosa, ma è avvolto questo ripieno non in pasta sfoglia bensì in pasta lievitata. Quindi fondamentalmente la differenza è questa. Oltre i due dolci si differenziano anche per il fatto che la cubana goriziana è un dolce molto più sostanzioso, essendo per l'80% composto appunto da ripieno, mentre la cubana cividalese ha un ripieno che copre il 40% circa del peso complessivo del prodotto. Bene, io la ringrazio Visentine di questa sua spiegazione così molto ma molto chiara, che ci ha così chiarito sicuramente le differenze appunto tra cubana e cubana. Il gastronauta. Colombe, uova, crescia, torta di Pasqua, cubana. Bene, abbiamo parlato sicuramente di tantissime specialità che in questi giorni arrivano sulle tavole degli italiani, ma abbiamo altresì sentito da Marco Visentin, che ci ha presentato la cubana goriziana, quali differenze possono essere sui prodotti a pochissimi chilometri di distanza. Ebbene, ci ha parlato di una cubana goriziana e di una cubana del Cividalese, quindi l'Italia ancora una volta mostra questa creatività e questa diversità dei territori davvero straordinari, che sono la forza sia della cucina che della gastronomia. Ma qualcuno potrebbe aver pensato che ci siamo dimenticati delle uova al cioccolato. Non ce lo siamo assolutamente dimenticato, e per questo abbiamo con noi un grandissimo cioccolatiere, Andrea Slitti. Buongiorno Andrea. Buongiorno a tutti voi. Bene, io ho chiamato Andrea Slitti perché circa 2 anni fa abbiamo parlato con lui delle uova di Pasqua, le uova ovviamente al cioccolato, e ricordo che Andrea aveva confidato che 2 anni fa, ma anche 3-4 anni fa, molti personaggi solevano mettere all'interno delle uova come, diciamo, ricordo, come sorpresa, o le chiavi di una Ferrari o una pelliccia di visone. Volevo chiedere Andrea, sono cambiati i tempi? Beh, no, i tempi non sono cambiati, continuano sempre le persone, un certo numero di persone a voler mettere una propria sorpresa personale dell'uovo. Quest'anno la cosa più bella, più carina che ho messo in un uovo è un contratto per l'acquisto di una casa. Eh beh, insomma, sicuramente in questo periodo poi di subprime o di mutui credo che sia, ma questo contratto di una casa prevede il mutuo o non prevede il mutuo? Vabbè, non lo so, non mi sono messo a leggerlo. Bene, Andrea, comunque voglio chiederti così cose un po' più serie che riguardano il tuo lavoro. Sì. La qualità, sei d'accordo che è cresciuta in Italia la qualità del cioccolato? Non è cresciuta solo adesso, ma è già un po' di anni che l'Italia è uscita fuori con la qualità nel cioccolato, e questo lo si vede moltissimo dalle richieste che abbiamo dall'estero del prodotto cioccolato italiano. Noi pensa che da un anno e mezzo a questa parte abbiamo iniziato a aprire dei negozi a marchio sia a Taiwan che attualmente in questi giorni stiamo aprendo in Cina, e abbiamo già dei rapporti per quanto riguarda la Corea o Singapore o l'Australia, quindi posti dove abitualmente prima, molti anni fa, si sarebbero rivolti a paesi come il Belgio o la Francia. Come la Francia, ecco. Quindi diciamo che il cioccolato italiano è cresciuto. Io ho un'impressione quest'anno, girando in questi giorni, che nei bar non ci sia, diciamo, questa esposizione enorme di tantissime uova di cioccolato. È vero questo? È vero, è vero. Guarda, ho notato in giro che molte persone hanno avuto forse paura di investire sull'uovo, forse anche indipendentemente quello magari dalla propria clientela o comunque dalle aziende che abitualmente trattava, probabilmente avranno avuto un calo. Io ti dico la verità, noi abbiamo avuto sia l'anno precedente, la chiusura dell'anno, con un aumento di fatturato, e vedendo da questa Pasqua credo di stare intorno a un 15% in più sempre dell'anno precedente. Sono cambiate, sì, ovviamente un po' diciamo la fascia di prezzo, però quello comunque sia, in momenti come questo poco importa, l'importante è che la gente comunque entri e compri. Poi se comprava 2 anni fa l'uovo da 150 euro e adesso lo compra da 90, poco importa, ecco. Certo. La qualità ha retto in questo. Certamente troviamo anche in giro delle uova a 2 euro, 1,50 euro, e se quelli rimangano sullo scaffale è anche giusto che rimangano. Certo. Un'ultima cosa ti voglio chiedere, che consiglio dai a una persona che vuole comprare un uovo? Cioè, quali trucchi deve così usare per capire la qualità di un uovo di Pasqua? C'è qualcosa leggendo l'etichetta? L'importante è sempre, come si acquista comunque qualsiasi prodotto alimentare, di andare a leggere l'etichetta. Il cioccolato di qualità, te pensa, lo sai benissimo perché ci conosci, noi facciamo un cioccolato che non usiamo nemmeno la lecitina di soia negli ingredienti, quindi è soltanto massa di cacao, burro di cacao, zucchero e vaniglia in bacche. Quindi ecco, stare attenti se vediamo nel cioccolato al latte l'aroma di vaniglia o vanillina, quindi prodotti sintetici. Se il contenuto di cacao in un fondente è troppo basso, quindi è segno che è un prodotto molto dolce e pieno di zucchero. Cioè, guardare un attimino, poi logicamente il consumatore sa che nell'etichetta l'ordine degli ingredienti è in misura in quanto viene messo, quindi se leggiamo all'inizio zucchero e la massa di cacao in un cioccolato fondente è al terzo posto perché c'è zucchero, burro di cacao e dopo massa di cacao, Ecco, certo. Già qui lo deve un attimino allarmare, perché in un cioccolato fondente il primo ingrediente che si deve leggere è massa di cacao. Certo. Bene, grazie Andrea Slitti della società, del laboratorio Slitti di Monsumano in provincia di Pistoia. Bene, ora andiamo in Romagna, andiamo a Sarsina, di cui già ho accennato prima questa tradizione dell'antica pagnotta pasquale, e così ci facciamo raccontare di questo prodotto da Katia Guerrini, che è un po' l'animatrice di questo prodotto, del forno Corte Raffaello. Buongiorno Katia. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, ci vuoi dire cos'è questa antica pagnotta pasquale? Allora, l'antica pagnotta pasquale è un dolce che segna i rituali della Pasqua, è un pane dolce che viene arricchito di uva passa, e fin dal secolo scorso, che veniva fatto nelle case così dell'entroterra, veniva prodotto durante la settimana santa, e per ogni componente del nucleo familiare, diciamo, si faceva questa pagnotta pasquale. La Valle del Savio, Sarsina, sotto lo Stato Pontificio, solitamente quando infornava la pagnotta la moglie del capofamiglia, faceva di solito il nome del padre. E invece, per esempio, prima parlavate appunto delle differenze, no? Di un prodotto vicino all'altro, su in alta valle, sotto il Granducato di Toscana, quando si, a Bagno di Romagna, per esempio, che dista soltanto 10 chilometri da qui, quando si infornava le pagnotte, invece del nome del padre si faceva 1, 2, 3, 4. Questa era una piccola, diciamo così, nota culturale su come in un territorio piccolissimo, distanza di pochi chilometri, c'era questa differenza, questa simbologia diversa di interpretare il dolce. Ecco, ma c'è una festa attorno a questa antica pagnotta? Sì, da oltre 25 anni, le due domeniche che precedono la Pasqua, a Sarsina si festeggia la sagra di questo dolce, e da qualche anno è stato proprio istituito un premio, la Magna Pagnotta. Un'enorme pagnotta di oltre 8-9 kg viene posta al centro della piazza, e chi indovina il peso di questa grande pagnottona poi avrà l'onore di portarselo a casa. Quindi è diventato un gioco molto divertente, Magna Pagnotta, anche perché Sarsina comunque è una città di origine romana, e quindi abbiamo usato un po' questo naming anche in nome di questo. Senti, ma questo pane può essere così abbinato a un qualcosa di particolare? Allora, questo pane solitamente e tradizionalmente viene abbinato la mattina di Pasqua con le uova sode benedette e del salame, una fetta di salame, del vino sangiovese, e quindi questo è, diciamo così, il rituale che ogni romagnolo, ogni sarsinate, diciamo così, ritualizza la domenica mattina al ritorno della messa. Senti, un'ultima precisazione, hai detto sì. uova benedette, e abbiamo visto in... mi sembra a Urbino che le uova vengono benedette nelle case, invece a Sarsina vengono benedette nel Duomo? Allora, a Sarsina vengono benedette sia durante, diciamo così, la benedizione pasquale che fa il parroco, ma anche molto durante proprio, diciamo così, la Settimana Santa, dove quando migliaia di pellegrini si rivolgono, diciamo così, nella nostra cattedrale per ricevere la benedizione di San Vicinio, poi ne approfittano per ricevere anche la benedizione delle uova pasquali. Grazie a Katia Guerrini del forno Corte Raffaello, appunto di Sarsina, in provincia di Forlì-Cesena. Bene, a questo punto non mi resta che augurare a tutti buona Pasqua, e un pensiero corre sicuramente in Abruzzo. E vi do appuntamento domani alle 10 per la replica di questa trasmissione, nonché alle 12.15 sempre di domenica con il Wine Bar del Gastronauta, e tutti i giorni alle 18.30 con la pillola. Di nuovo buona Pasqua a tutti.